1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora, cari ascoltatori, eccoci qui, sono le 7:19 minuti, debosciati miei, quanto tempo è che non vi chiamo così affettuosamente, con un abbraccio, una tenerezza infinita. Amici, sono le 7:19 minuti, questa è 24 mattino e siamo Alino, pronti. Il primo debosciato sei tu! Un po' è vero, un po' è vero. Confesso, confesso. Allora, siete contenti per la vittoria dell'Italia? Siete contenti per la vera uscita dell'Inghilterra, non della Gran Bretagna, cioè la sconfitta con l'Islanda? Oh, aveva ragione Forchielli, mi sa che dovremmo sostituire nelle barzellette i carabinieri con gli inglesi dopo quello che è successo nelle ultime, diciamo, 72 ore. Va bene, dai, ce l'ha detto ieri Alberto Forchielli qui, sostituiremo gli inglesi al posto dei carabinieri delle barzellette. Non si offendano i nostri amici inglesi, eh? Un grande abbraccio anche a voi, e non si offendano soprattutto i carabinieri. Tra poco, dai, la lettura dei giornali, anzi subito. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, è martedì 28 giugno, ovviamente i giornali sono sempre lì con i fari puntati a capire che succederà con la Brexit. Il titolo del Sole 24 Ore: incubo Brexit, banche europee sotto attacco, il titolo di prima pagina. Così il Corriere della Sera: borsa in caduta, Londra bocciata. Per Repubblica: Brexit e scudo bancario, ecco le tre ipotesi allo studio del governo. La Stampa intervista il capo dello Stato Mattarella: nuova Europa, fare in fretta. Questo è il titolo dell'intervista. L'Unione Europea riparte da tre, così Avvenire, per il vertice Berlino-Parigi-Roma. Il Messaggero invece: frenata sui tempi della Brexit. Per Libero: così l'euro ci ha impoveriti. Mentre l'Unità: un piano per l'Europa. Il Giornale, qui veniamo alle metafore sportive, viene giù tutto tranne Conte. E qui siamo, se volete, alla Gazzetta dello Sport, poi ci concentreremo. Comunque, il titolo è efficace, della Gazzetta dello Sport. Godemos. Sapete che in Spagna c'è Podemos e invece Godemos. Questo è il titolo. È il titolo della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria sulla Spagna e l'eliminazione da parte dell'Italia. Allora, però, voglio partire dalla lettura di cosa. Mi ha colpito, mi ha impressionato il colloquio che Lorenzo Cremonesi ha fatto in Libia, Tripoli, con un kamikaze dell'ISIS che è stato fermato, arrestato poco prima che entrasse in azione. Un incontro che, scrive Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, abbiamo fatto una notte, grazie ovviamente alle forze dell'ordine libiche che lo hanno arrestato, dall'una alle 5 del mattino, dall'una di notte alle 5 del mattino. Due giorni fa incontriamo questo ragazzo, carnagione scura, delle popolazioni del Fezzan, magro, nervoso, forte, capelli nerissimi, lo sguardo fisso, determinato. Io, kamikaze dell'ISIS, arriveremo presto a Roma. E racconta Lorenzo Cremonesi ciò che più colpisce: l'assoluta tranquillità con cui ammette il progetto di farsi saltare in aria in nome di Allah. Le mie paure non contano, faccio ciò che è giusto per la nostra religione, morirò e andrò in paradiso, così è scritto, così vuole Dio, chiede così il Corano. Eccolo qui, davanti a noi, confessa, che era tutto pronto per assassinare il generale italiano Paolo Serra, consigliere militare di Martin Kobler, inviato ONU per la Libia, sostenitore del premier Fayez Sarraj. Abbiamo incontrato colui che si chiama Mahmoud Ibrahim per 4 ore, è appena stato arrestato e il capo dei servizi libici è soddisfatto nel mostrarlo a un giornalista italiano. E allora Ibrahim, eccolo qui: avrei dovuto eliminare il generale Serra, il premier libico Sarraj e l'inviato ONU Kobler. Con i miei due fratelli Al-Hassan e Abu Bakr c'eravamo quasi riusciti, era tutto pronto. Io e Hassan siamo entrati in contatto con i nostri compagni dello Stato Islamico a Sirte e Sabah, loro ci hanno fornito l'esplosivo. Il piano era che il fratello Abu Bakr ci avrebbe lasciato entrare con un'autobomba e due cinture esplosive durante un incontro tra il generale Serra, Kobler e Sarraj. Non avrebbero avuto scampo. Siamo stati fermati perché sono andato a scattare foto sul posto e probabilmente mi hanno individuato. Racconta Cremonesi al ritmo quasi monotono della voce, che diventa acuto solo quando il traduttore, che si sente personalmente offeso dalle sue dichiarazioni sull'Islam, lo accusa di non conoscere nulla del Corano. E al che c'è un battibecco: ma chi sei tu per parlare a nome mio? Conosci i principi fondamentali della nostra fede? E lo scambio si fa per un attimo dottrinale. Si parla della zakah, la carità religiosa, dei precetti del Ramadan. Il kamikaze mancato Ibrahim si fa paonazzo, è in difficoltà quando si tratta di discutere. E poi dice: però quello che dico è giusto, io difendo la mia religione, il mio popolo, e presto tutta l'Europa sarà musulmana. Arriveremo a Roma e tutti saranno obbligati o a convertirsi all'Islam o pagare la tassa prevista dalla nostra legge religiosa. Se non intendono farlo, verranno uccisi. Così, semplice. È impressionante il racconto, io kamikaze dell'ISIS, così arriveremo a Roma. Lo trovate sul Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Allora, è una questione internazionale che ho trovato sul Fatto Quotidiano, infatti il Fatto Quotidiano l'ho messo da parte per leggere nel titolo di prima pagina, ma che riguarda l'Italia ed è solo sul Fatto Quotidiano questa vicenda su cui sta indagando la Procura di Siracusa. È una vicenda che parla di un presunto complotto che riguarda l'ENI. È il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano: Eni, complotto antidescalzi, cioè l'amministratore delegato, pressioni sul giglio magico. È una vicenda che Antonio Massari racconta a pagina 9, molto intricata, molto complicata, sulla quale la procura di Siracusa ha aperto un'indagine. Ci sarebbe un complotto internazionale per delegittimare l'amministratore delegato Descalzi dell'Eni per poi arrivare alla sua sostituzione con una cordata diversa. Questi sono i dettagli molto vaghi e in questo complotto si parla di pressioni da parte di ambienti internazionali nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti, al direttore degli aeroporti toscani Marco Carrai e all'imprenditore Andrea Bacci, tutti e tre molto amici di Matteo Renzi, molto vicini a Matteo Renzi, per questo complotto per cercare di delegittimare appunto a livello internazionale Descalzi e danneggiare così l'ENI, cambiarne la gestione amministrativa, danneggiare anche politicamente Renzi. Racconta Massari, il Fatto Quotidiano, il giglio magico sarà ascoltato, sentito dai PM, perché i magistrati stanno cercando riscontri. Ovviamente è tutta una cosa molto complicata, quasi da intrigo internazionale. Ve la sottopongo, la trovate nei dettagli a pagina 9 del Fatto Quotidiano. Ci avviciniamo un po' all'Italia per raccontare due cose che riguardano l'immigrazione. La prima è una sentenza della Cassazione sugli immigrati. Questa la leggo dal Messaggero a pagina 14. La Cassazione ha stabilito: tra i migranti chi è malato non può essere espulso. Il caso accolto del ricorso di una donna peruviana, il diritto alla salute va tutelato. Un immigrato senza permesso di soggiorno, dunque irregolare, non può essere comunque espulso dal nostro paese se ha seri problemi di salute. Lo ha deciso così la Cassazione, accogliendo il ricorso di una signora peruviana che si era opposta al decreto di espulsione, convalidato anche dal giudice di pace di Roma nel luglio dello stesso anno, cioè 2015, ma facendo ricorso alla Cassazione, visto che è gravemente malata a causa di un tumore, il giudice ha detto deve rimanere in Italia. A proposito però di migranti, il giornale mette a pagina 3 questa ricerca shock dagli stranieri più reati. Altro che accoglienza a ogni costo, gli immigrati delinquono in media 4 volte di più. E secondo un studio della Fondazione IUM di Luca Ricolfi, quindi una persona estremamente seria, che ha messo in fila i tassi di criminalità relativi tra stranieri e nativi nei paesi europei, Si evince che in media gli stranieri delinquono 4 volte di più, con punte di 12 volte di più in Grecia, 7 in Polonia, 6 in Italia, 5 nelle civilissime Svezia, Austria e Olanda. Certo, bisogna poi capire anche i motivi, spesso è una mancata integrazione, immagino che porta poi ai margini cosiddetti della società le persone che poi arrivano a delinquere. Comunque, la Fondazione David Hume mostra come proprio nel Regno Unito il sentimento di paura e insicurezza verso gli stranieri sia meno motivato, paradossalmente legato dunque alla Brexit. Si dice, sapete che molti hanno votato la Brexit per paura, gli immigrati eccetera, eppure in Gran Bretagna c'è meno percezione di insicurezza e anche una meno incidenza dei reati da parte degli stranieri rispetto ai nativi, rispetto invece ad altri paesi. Appunto in Grecia delinquono 12 volte in più rispetto ai greci, in Croazia 8,7 volte di più, in Italia 6,3 volte in più. Comunque la media è gli stranieri delinquono 4 volte di più dei nativi. Questo invece è italiano e vince il premio Mani sul volante se siete alla guida e se state facendo colazione, come sempre, caffè bollenti da appoggiare, coltelli per la marmellata e il burro, anche questi da appoggiare, rasoi se vi state facendo la barba da appoggiare. Succede a Benevento, lo racconta Grazia Longo sulla Stampa pagina 19. C'è un dirigente comunale che era presidente delle commissioni di aggiudicazione delle gare d'appalto che si era procurato un laparoscopio, strumento molto delicato, molto anche difficile da trovare se non sei un medico, se non lavori in una struttura pubblica o privata medica. Il laparoscopio è quello strumento che entra con una telecamera e può esaminare dentro il nostro corpo. A lui lo utilizzava per esaminare le gare d'appalto con le buste sigillate. Entrava con il laparoscopio, studiava, leggeva, spiava, scrutava e poi faceva vincere gli amici. Questa è l'accusa, la micro telecamera nelle buste e gli amici vincevano gli appalti. Succede a Benevento, dirigente comunale arrestato, era il presidente delle commissioni di aggiudicazione delle gare. Beh, c'è un certo ingegno in questa cosa, però è un crimine, una truffa. Usava il laparoscopio con le telecamere, spiava le gare d'appalto, le offerte e vincevano gli amici. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'Empire State Building dell'informazione. Addirittura, beh, grazie molte, mandate le vostre sigle al 349-238-6666. E anche per i vostri messaggi, sia SMS, sia WhatsApp, in audio, appunto. Allora, la Brexit. Ora sta succedendo qualcosa di particolare. Cioè, dopo che si è votato per la Brexit, gli stessi che hanno votato per la Brexit, forse rendendosi conto di essersi spinti un po' troppo in là o di essere un po' travolti da questa onda improvvisa che non si aspettavano anche loro, o addirittura inaspettatamente trovandosi vincitori, sono i primi che frenano, cioè coloro che erano per la Brexit. Beh, intanto colui che invece non era per la Brexit ma ha indetto il referendum, cioè David Cameron, il premier che ha annunciato le dimissioni per settembre-ottobre, dice: nessuna corsa verso la Brexit, nessuna fretta. Il premier britannico ha anche escluso un secondo referendum. Sapete che c'è questa petizione che vorrebbe dire rifacciamo il referendum. E questo Cameron l'ha escluso. La decisione di uscire dall'Unione Europea, ha detto, è definitiva. Ma certo, la questione è questa. A chi spetta ora, come racconta Fabio Cavalera, pagina 8 del Corriere della Sera, far partire tutta la procedura? Il famoso grilletto di cui si parla, cioè l'articolo 50 del Trattato Europeo, ossia la notifica di Londra all'Europa della volontà di divorziare. A chi spetta? All'attuale premier britannico? Al premier che subentrerà una volta che Cameron si sarà dimesso? Sia che possa essere Boris Johnson, ex sindaco di Londra, sia Theresa May? Qualcuno dice potrebbe essere invece il ministro delle finanze, l'equivalente del ministro delle finanze britannico, e che è uno per il Remain invece? Insomma, chi dovrà far partire tutto questo? Insomma, i tempi, scrive il Corriere, rischiano di essere lunghi, necessariamente lunghi. Ecco perché Banca Inghilterra ha innescato il piano d'emergenza che ha lo scopo di puntellare l'economia. Cosa che non sarà una passeggiata, rimarca David Cameron. E fino a ieri i sostenitori della Brexit erano tutti ansiosi di andarsene in fretta, adesso tirano il freno. Il primo tra tutti è Boris Johnson. Pare abbastanza incredibile, ma anche Il Giorno dedica proprio una pagina di Sofia Ventura: se la realtà è più dura dei sogni, Boris il populista ha le gambe corte. E il Corriere della Sera pubblica ciò che Boris Johnson ha, che è un giornalista, un opinionista, prima di essere prima di diventare un politico e sindaco di Londra. Ebbene, Boris Johnson ha pubblicato un articolo sui giornali britannici, che viene riprodotto dal Corriere della Sera: prospereremo fuori dall'Unione Europea, ma siamo parte dell'Europa. Eccolo qui Johnson. Credo che i milioni di persone che hanno votato Leave, scrive, siano stati ispirati dalla convinzione che la Gran Bretagna è un grande paese, che al di fuori dei garbugli burocratici dell'Unione Europea che distruggono i posti di lavoro, possiamo sopravvivere e prosperare come mai è stato. Credo che la loro analisi sia giusta sia la loro scelta, eppure noi che concordiamo col verdetto dobbiamo accettare che non è stato poi così schiacciante. Più di 16 milioni volevano restare, sono i nostri vicini, i nostri fratelli e sorelle. In una democrazia le maggioranze possono decidere, ma tutti hanno ugual valore. E allora io non insisterò mai abbastanza sul fatto che la Gran Bretagna è parte dell'Europa. Continueremo ad avere una cooperazione sempre più intensa. I cittadini dell'Unione che vivono in questo paese vedranno i loro diritti pienamente tutelati. Lo stesso vale per i cittadini britannici che vivono nell'Unione Europea. L'unico cambiamento, e non avverrà da un giorno all'altro, è che il Regno Unito si districherà dal sistema legislativo straordinario e opaco dell'Unione Europea. La storia confermerà che il popolo britannico ha avuto ragione. Insomma, non è proprio il discorso di un leader incendiario che dice a morte l'Europa, anzi tutt'altro. Boris Johnson, colui che si è battuto per la Brexit. Forse le reazioni isteriche che ci sono state dopo il voto sono state un po' esagerate. Come vedete, i primi che vogliono annacquare sono proprio coloro che l'hanno votata la Brexit. In tutto questo c'è la delusione di Mario Draghi, ha definito il presidente della Banca Centrale Europea un giorno di grande tristezza. La migliore parola per descrivere tutto ciò che noi abbiamo vissuto, come siamo testimoni, è tristezza. Questo Mario Draghi dai giornali. E poi c'è il grande dibattito sulle banche. Banche e la possibilità del salvataggio delle banche. Isabella Bufacchi racconta il nodo delle deroghe dell'Unione Europea a pagina 5 del Sole 24 Ore. Dopo lo shock Brexit, tutte le porte aperte, le opzioni sul tavolo, gli strumenti anche inediti pronti nel cassetto, le armi sono affilate. Insomma, se servirà un'operazione straordinaria risolutiva per mettere in sicurezza il sistema bancario italiano e europeo, un intervento speciale calato nel contesto eccezionale scatenato da Brexit, ebbene questo Armageddon salterà fuori. Così scrive Isabella Bufacchi. È questo il senso del piano salva banche che Palazzo Chigi, il ministro dell'economia, la Banca d'Italia sta mettendo a punto per far sì che le turbolenze senza precedenti del voto Leave non inneschino un rischio sistemico che sarebbe disastroso per la crescita. Il piano per sostenere il sistema bancario al momento non ha una forma esatta, non ha una cifra, non ha una dimensione, è un ventaglio di interventi che dovrà funzionare e essere sostenibile. Le ipotesi allo studio al momento non escludono alcun colpo in canna. Se dovesse essere possibile in seguito all'apertura dei partner europei maggiori margini di manovra, il Tesoro potrebbe intervenire con garanzie o interventi di capitalizzazione diretta su equity e crediti deteriorati, all'occorrenza aumentando gli importi delle aste dei titoli di Stato in un'annata nata leggera rispetto alle emissioni lorde di altri anni e alleggerita comunque dagli acquisti massicci della BCE. Ma insomma, anche la Cassa Depositi e Prestiti è pronta a fare la sua parte. Insomma, il piano non è nei dettagli perché non c'è, ma come scrive il Sole 24 Ore c'è un'ampia gamma di ipotesi allo studio. In tutto questo parla il capo dello Stato Mattarella, viene intervistato dalla Stampa, dal direttore Maurizio Molinari e dal quirinalista Ugo Magri. È l'ora della concretezza, questo è l'appello di Mattarella all'Europa, così l'Italia può fare la differenza. Mattarella, che in questa lunga intervista a pagina 2-3 dice, tra l'altro, il voto dell'elettorato nazionale o di altro paese va sempre rispettato, anche quando provoca rammarico e lo si ritiene un errore. E spero che questo chiuda il discorso a tutti coloro che dicono non devono votare, il popolo su cose così delicate non si deve esprimere. Avete sentito il capo dello Stato? Il voto va sempre rispettato, anche quando provoca rammarico e lo si ritiene un errore. Parole che andrebbero scolpite. Non si può tacere, aggiunge Mattarella, che quel voto cancella quasi mezzo secolo di storia britannica. Quello della partecipazione all'Unione Europea ferisce la completezza dell'Unione e sorprende, aggiunge Mattarella, che uno dei paesi più aperti al futuro in tanti aspetti, finanziari, scientifici, culturali, abbia fatto una scelta che sembra proporsi di ripristinare condizioni del passato. Poi, insomma, parla ovviamente di tante cose il capo dello Stato in questa intervista alla Stampa. Ma dopo il capo dello Stato c'è il numero due, Mauro Meazza, signori, il corazziere dell'informazione, eccolo qua. Buongiorno Alessandro, non, cercherei di non esagerare. Vabbè, insomma, allora associarti agli indagati e ai condannati, no, così, no? Va bene, però, insomma, io prenderei una posizione più mediana. Va bene, ecco. Va bene. Caspita, ma oggi siamo veramente lanciati, ti sento discettare di questioni economiche evolute, parlare in latino. Che cosa è successo? Dove sei stato in vacanza? In un master particolarmente esigente? Esci da me. Bene, allora, senti, vedo che siccome fai questo ampio uso di terminologie economiche anche ricercate, mi raccomando, non fermarti sul più bello. No. Continua il martedì e il mercoledì a ritirare i fascicoli dell'economia per la famiglia. Assolutamente. Ecco, perché sai che lì appunto cerchiamo di spiegare, anche a te, i termini dell'economia, l'andamento dell'economia, della macroeconomia, ma in parole semplici, in modo che tutti possono capire. Anch'io, in modo che tutti possano. Allora, di Brexit mi pare che si sia detto già qualcosa, no? Da parte tua. Ti segnalo soltanto, appunto, le banche sono il grande problema, l'hai già ricordato tu. C'è una tensione sulle banche, qualche anno fa ti ricordi era sui titoli di Stato, sì. E adesso invece le tensioni speculative sembrano essersi indirizzate proprio sulle banche. Vediamo oggi cosa decidono al Consiglio europeo, perché è uno dei punti su cui la garanzia unica bancaria in cui si potrebbe dare un segnale. Ma non si parla solo di Brexit sul Sole 24 Ore, perché parliamo anche di APE, non di Rita, ma di APE. Sì. Ti ricordi APE? L'anticipo pensionistico. Come no? Come oggi no? C'è un incontro governo-sindacati, c'è tutta l'altra parte delle pensioni su cui si pensa di intervenire nel 2017 con la legge di stabilità, stavo per dire manovra finanziaria, ma è roba d'altri tempi, non si chiama più così. E i nodi sono soprattutto le rivalutazioni delle pensioni e le ricongiunzioni, cioè quando hai spezzoni di contributi in più gestioni, magari hai fatto un po' l'autonomo, un po' il dipendente, eccetera. E questa è una delle cose che andranno valutate tra governo e sindacati. Oh, poi, siccome oggi è martedì, giusto? Sì. Brexit, condominio. Non Brexit, è martedì. Si vive in condominio Brexit, infatti, no? Sì, non, però non ci occupiamo dei condomini che se ne vogliono andare, come pure poteva essere, ma invece degli incapienti, cioè di coloro che non possono sfruttare, ad esempio, gli sconti per i bonus edilizi, gli sconti del fisco, e perché anche lì ci sono delle misure che si pensa di attuare nel prossimo futuro. Oh, naturalmente mi sono dimenticato di dirlo, ma anche oggi su Sole 24 una bussola per gli investimenti nella fase di Brexit. E poi c'è, ecco, tu parli sempre delle province, come sì, della settimana. Sì. C'è anche questo problemuccio delle società partecipate. Sai che le partecipate dei comuni, quelle di come no, sono gas, luce, acqua, sono 8.000, c'è un piano per ridurle. C'è da 5 anni forse questo piano, il famoso piano Cottarelli. Più settimane decisive. sì. Però oggi su Sole 24 Ore leggi Gianni Trovati, perché ci sono delle richieste di modifica al piano per ridurre, dovrebbe tutto confluire. Mettiamolo a capo della spending review Gianni Trovati, così lo rottamano in 2 mesi, come succede. È un amico, ma perché dobbiamo fargli questo? Certo. Però invece leggiamo sul Sole 24 Ore oggi come potrebbe modificarsi il piano per le partecipate. Va bene, tutto ciò premesso. Traffico! Alessandro Milan, la sveglia dell'informazione. Oh, va bene. E allora, eccoci qua, cari ascoltatori. Siamo ancora a scampoli di politica. Beh, se c'è una cosa che la Brexit ha partorito come effetto benefico sui giornali, questo l'ho già detto alle 6.30, ma è bellissimo, i giornali di ampio respiro, internazionale, raccontano le cose. Di politica non c'è nulla del dibattito politico, dei rapporti, del dibattito all'interno del Partito Democratico. C'è però qualcosa su Silvio Berlusconi e su Forza Italia, i piani di Berlusconi sul partito da rifare. Sia su Repubblica che sul Giorno, che sul Giornale, ci sono dei dettagli importanti, perché secondo Repubblica, Concita Sannino a pagina 14, Berlusconi avrebbe deciso di lasciare la leadership di Forza Italia, e ormai il dado è tratto, come si suol dire. E Berlusconi lascerebbe a chi? Beh, a Giovanni Toti, questa è la personalità politica, presidente della regione Liguria, che viene identificato come l'uomo con più chance di raccoglierne il testimone. Berlusconi lascerebbe e spunterebbe Toti leader, questo secondo Repubblica. Secondo il Giornale e il Giorno, invece, la questione è un po' più complicata. Non c'è solo Toti come possibile successore di Berlusconi, ma c'è anche la questione della gestione del partito. Le ultime voci danno come incarico, come gestore economico del partito a Alfonso Cefariello, che magari è poco conosciuto, è un dirigente Fininvest e anche un manager del Milan. E dunque Alfonso Cefariello e invece Paolo Del Debbio, sicuramente questo volto più noto, è dato come portavoce possibile, Paolo Del Debbio. Dunque Toti in plancia di comando dal punto di vista politico, Del Debbio portavoce, Alfonso Cefariello dirigente, come dire, amministrativo. Questo secondo i giornali, Lasciamo la politica, se ci buttiamo nella cronaca, il tema e la cronaca che emerge di più, il tema più affrontato oggi è questo terribile fatto dai contorni, ancora un po' da chiarire, ma insomma la dinamica da chiarire, ma i titoli sono emblematici e terribili. Violentano l'amica sedicenne, arrestati 5 minori. Una violenza di gruppo consumata a San Valentino Torio in provincia di Salerno. Un'aggressione, pare in un garage, insomma il contesto è quello di una ragazzina di 16 anni che conosceva uno di questi ragazzi, che l'ha convinta ad andare in un garage. Prima c'erano 2 ragazzi che l'hanno violentata e poi pare altri 3 che sono arrivati successivamente. Un contesto davvero terribile. Anche perché, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, pare che la prima reazione da parte dei ragazzi arrestati, quando questa ragazza si è fatta forza, grazie all'aiuto anche dei genitori, a denunciare tutto questo, i ragazzi abbiano dichiarato: in fondo che abbiamo fatto di male? Questo almeno racconta Repubblica a pagina 19. Tra l'altro, questa è una vicenda che c'è su tutti i giornali, c'è solo sul Secolo XIX invece una vicenda totalmente assimilabile. 3 giovani calciatori accusati di stupro. Uno di loro a 17 anni avrebbe messo a disposizione dei compagni la fidanzatina di 18. È un altro caso, proprio nel giorno in cui viene questo in provincia di Salerno, succede invece a Savona. A casa della vittima non ci sono i genitori. Il 17enne dice: dai, vengo con 2 amici, guardiamo solo la TV. E poi, quando vanno a casa di questa ragazza, la violenza. Questo almeno racconta il Secolo XIX. Ecco perché, quando ho trovato su Libero questo articolo di Tommaso Montesano, critico, perché fa passi avanti una legge, una proposta di legge in Parlamento, proposta di legge associata a Laura Boldrini, proposta di legge per introdurre l'educazione ai sentimenti, l'educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione. Beh, Libero la mette come critica, a scuola studieremo pure i sentimenti. Io la vedo invece una cosa positiva. Se si dice tante volte che dalla cultura poi bisogna partire per affermare degli atteggiamenti positivi da parte dei giovani nei confronti, soprattutto ragazzi, nei confronti delle ragazze, forse è perché ci vorrebbe un po' più di educazione sentimentale anche nelle scuole. E quindi secondo me è una cosa positiva che ci sia questa proposta di legge. Va bene, siamo un po' in rapida conclusione. Beh, ci sono tanti articoli su Bud Spencer, mi fa talmente male il cuore che non voglio neanche leggere, ma insomma Bud Spencer è scomparso, ha 86 anni, era molto anziano, ha regalato milioni di risate a tutti noi. Invece un grande abbraccio dunque al grande, gigante, buono Bud. C'è questa storia sul giornale che Diana Alfieri racconta questo, sentite un po'. Sarebbe, usiamo sempre il condizionale, ci sarebbe un giudice togato del CSM che voleva mandare un SMS all'amante, ma per sbaglio l'ha mandato alla moglie. Al che cosa succede? Al che finge dicendo no, mi hanno rubato il cellulare. E per giustificarsi con la moglie. Però pare che sia tutta una finta e quindi adesso è accusato di simulazione di reato. Pare sia successo al CSM. Ovviamente è tutto i si dice, i dicunti, i ferunti, i tradunti, i pare, i condizionali d'obbligo, ma è tutto raccontato dal giornale a pagina 13, chi lo sa. Vabbè, sempre sul giornale c'è la carta costa, l'articolo, la pagina più inutile sui giornali, questo amore per i fari. Siamo tutti romantici, i fari d'Italia che hanno una seconda vita, i fari. Ma chi se ne frega!